Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano e, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Oggi il Signore guarisce un uomo che aveva la mano paralizzata e lo guarisce in giorno di sabato. Ma è interessante che prima di compiere questo miracolo i farisei stavano ad osservarlo per vedere appunto che cosa avrebbe fatto in giorno di sabato. E subito Gesù dice: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Perché Gesù pone questa domanda? Perché vuole far capire che quando noi possiamo fare il bene e non lo facciamo, è come se facessimo il male. Cioè, Gesù ci sta insegnando qui a distinguere i peccati, non solo i peccati che facciamo attivamente ponendo in azione un qualcosa, ma anche quando omettiamo di fare quello che avremmo potuto fare. In quanto i farisei pensavano che non operare il bene il giorno di sabato non fosse un peccato. Perché? Perché erano ligi all'osservanza del riposo sabbatico. E quindi preferivano l'osservanza scrupolosa della lettera piuttosto che l'osservanza dello spirito della lettera, non della lettera, ma dello spirito, cioè del significato di un determinato comandamento. Se il sabato è per il riposo, non vuol dire che il sabato non mi devo interessare del bene degli altri, significa che devo la mia attenzione particolarmente a Dio e al culto divino, ma questo non mi deve impedire di guardarmi intorno e di sovvenire ai bisogni del prossimo. Allora ecco, oggi vi vorrei parlare del peccato di omissione. Quando andiamo in chiesa, nella Santa Messa, diciamo, chiediamo perdono perché ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Che cos'è l'omissione? L'omissione non è soltanto quando non facciamo il bene, perché altrimenti ogni momento potrebbe essere un'omissione, ma quando non facciamo il bene che avremmo potuto o dovuto fare. Dobbiamo saper distinguere il bene che potremmo fare e il bene che invece non è possibile per noi, per le nostre circostanze, per le vicissitudini in cui ci troviamo, compiere. Allora, l'omissione è quando trascuriamo di fare un bene alla nostra portata, un bene che siamo tenuti a fare o per lo stato di vita che abbiamo abbracciato, o per il dovere che in quel momento ci chiama, o perché siamo testimoni di un fatto. Per esempio, se vedo per strada qualcuno che ha un incidente o una persona da soccorrere e non la soccorro, è chiaro che io in quel momento sono tenuta a soccorrerla perché io sono testimone, io sono quella che ha visto. Ecco quello che è l'omissione. San Giacomo nella sua lettera dichiara: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ecco, noi talvolta siamo orientati a vedere il peccato soltanto in qualcosa che commettiamo attivamente, ma invece anche il non fare il bene che possiamo fare, anche quello è un peccato. Allora poniamo oggi attenzione a tutte quelle volte che evitiamo di fare ciò che avremmo potuto fare, o per pigrizia, o per negligenza, o per amore del quieto vivere, o per amore delle comodità, dei piaceri, del godere, del non avere fastidi. Ecco, tutte queste volte in cui noi ci rifiutiamo di fare il bene che è possibile a noi fare, è come se facessimo un male. Allora chiediamo perdono al Signore anche di questi peccati, siamo più attenti a evitarli e soprattutto cerchiamo veramente nel quotidiano di rendercene conto in modo tale da cadere il meno possibile in questo peccato di omissione. E per concludere vi vorrei citare questo aforisma che dice così: la nostra vera colpevolezza si trova assai più nei peccati di omissione che in quelle di opere. La nostra vera colpevolezza si trova assai più nei peccati di omissione che in quelle di opere. Buona giornata.